Buonasera signor Bacchi, mezzo chilo te ne devo dare. Buonasera, certo, la fischiata è da mezzo chilo. Cos'è? Prezzo. Demmo ve andemmo, dai da. Piano piano signor Bacchi, piano piano. Certo, bubù. Se ne freghi, se ne freghi, vedrà che già passa. Signor Bacchi, non si disperi. Cazzone 10, c'è qualcuno? Non si disperi così. Ciao già, nessuno va. La vita è così, signor Bacchi. La vita è così. Ciao Fabri. Siamo fatti così, con i dolori, pensieri. Ciao, ciao. Sì, non sbagli. Aspetta, spegni il nome, cazzo, se no 50 da me. Non fa nulla. Purtroppo non ho già avuto la vita. Buonasera a tutti. Hanno messo su una piazzetta, manifestazione dei bar, sono proprio. A proposito, non mi dite, c'era uno scenario io, però non ho avuto tempo, non mi dite se c'è. Sì, pieno, grande manifestazione. Facci qui, penso che la prossima settimana chiuderò tutto. Degli investimenti, certo, stanno rovinando l'Italia questi bar, mi va bene, mi transita. Che deve passare? Io non direi una cazzo, giugno proprio una fila qui. Siamo a ottobre, siamo in nuovo funzione, che Fabrizio mi sembra, ciao a tutti comunque. Io faccio questo rientrando adesso, non io voglio parlare, riprendi già. Quelli ti tirano su il dolore, con il calore. Una settimana per consigliere. No. Siamo un po', dai, se trovo un buco, se riusciamo a trovare un buco te lo faccio. Sono un'altra persona. Ok, buon Fabrizio, già ho sentito che forse ce la faccio. Non si comprende nulla cosa si dicendo, siete sembrati in due parlando. Ah, non lo gioco, dillo al microfono tuyo. Chissà tu che era venendo da fura, ci tirà sopra molto bene. Si fa sentire sicuramente. Se ne regalami in decoro, andavè. E già sto scendo bene. Quale cazzo? Che c'è qualcuno che ti copia. Ma non è che se l'avessi già quella lì, stavo parlando come convinto che tu ce l'avessi già, infatti ho parlato della mia, confrontandola alla tua, convinto che ce l'avessi. Ma molto focca? Aspetta, sono forti sono, però adesso ho fatto la prova e non ti passava. Ma allora, quasi quasi, la più forte di te, quasi quasi. Forse lei riesce a fare una cosa, adesso c'è un bel impianto, ha tutto le nascite del fatto, fratello poi è il... E adesso buscami anche giù un po', vediamo un po'. Stavo parlando come fa il sito, adesso buscami che devo piacere un traliccio, però c'hanno gli americani quelle cose, però fanno tutti i fili, gli americani ce lo mettono le luci, i fari. Loro le stiamo aspetta, che poi ci mettono anche là sopra, così non sono continuanti e cose del genere. Sentiranno anche a noi loro, Loro sentiranno come sentiamo. Ehi, avevo mettere la direttiva lì. Quindi, è così. Il rotore, certo. con l'anziano cosa c'è? È l'uscita e l'entrata, no? Potarci il muro. Potarci pure il muro. Sì, no, ma a me piace ascoltare pure, fare la mia. Io sono un grande ascoltatore, diciamo, in tutte le barre. Le cose per tirare fuori, le cose più difficili, le cose che non è facile da tirare, da iniziare dai satelliti a finire. Parlavo italiano, era un italiano in Slovenia, sta parlando con l'Italia. L'hanno fatto lui, però diciamo un altro tipo di discorso. Martiani quando ti passa sopra, oppure c'è il satellite dei radioamatori, quello diciamo è abbastanza stabile, se c'è una buona antenna di ricezione riesce a fare. Infatti noi ti vediamo visto che ti vieni, e che potremmo trattare, hai compreso? E quello che facciamo lo fa, invece loro adoperano molte volte, adoperano anche le direttive. Avanti il break. Adesso c'è un'altra modulazione, ma cambia apparato. Perché già ne sarà la stessa cosa, qua ci arrivano fortissimo. 6,9 più 50, io quando arrivo dalle tue parti, Fabrizio. Ma di una domanda, che antenna stai utilizzando tu su questa banda? C'è una bella resa, cavolo. Considero che tu sei fortissimo, non so quanto ne stai dando, però stai arrivando alla grande. A parte Claudio e qualche volta Pompugno, nessuno ha fatto segnale così forte. Indovina. A bomboletta si dice. Un paio d'ori. No, tu sei sempre il più forte di quelli normali, l'ho sempre la tua posizione, sei quello più forte, secondo me, di quelli normali parliamo. Senza la mia squillo e con i pezzi normali. Chi si darà per la processione? Sani che si batteri in rui. No, no, ma che dice, si calda. Si mette a bollire, si mette, appunto, non c'è neanche cosa dovrebbe. Ma cosa fa massa? Gioca russi. E quello lì a me. Ma io mi uso dell'altro radio, continuo abbastanza bene, nella fila, tutte le cose. Questo ne messo 10, 20 minuti a terra. Sicuramente non sta facendo massa. No, sicuramente non mi sono fatto. Nel coso la potenza com'è? Più di 4 o meno di 4? Comunque già rende parecchio, questo c'è bello. Un bel segnalone, cioè qua. Ok, vabbè signori, io devo fare cosa adesso. Ciao Gianni, ciao Fabrizio, Claudio se in ascolto, Luca e eventuali amici su canale 10. Poi Fabrizio se ti cazzo. Hai capito, quello lì che deve dargli uno sguardino, e magari fatto un attimo di 5 minuti lo ti metti. Capisco io, probabilmente può essere anche una fesseria. Di che volta parlo? Che ne avevo due, c'ho anche un altro telaio io. Troviamo un modo di l'altro. No, dovrei averlo, dai, guarda un po' in mezzo alla roba all'imbarrazzo, dai, quello io non butto mai niente, queste cose le devo. Poi l'altro giorno mi hanno regalato. Ma tu non hai visto lo trigolo quello che ho fatto io? No, è bello, bello, diciamo, a chi piace. E poi ho fatto contro lavoro un GT 124 della 125, lo stanno 125 GT della Gucci, bello, quello abbiamo finito. Una moto anni 70, è un po' messa male, dai, però è completa, è un cinquantino, bellina, dai, io l'ho avuta e poi ho fatto scampo. Vi saluto di nuovo, dai, vi saluto, Fabrizio, guarda, domani se riesco a 5 minuti te lo guardo, però me lo fate, dovrei averlo, anteriore è sicuro, nuovo, dice la mobilità, però diciamo c'è un sacco di roba, perché Omar lo conosci, ci ha dato mezza officina alla fine, ma potete portate via tutto. La marmita esterna con le coperture cromate, dai, all'epoca era una copia brutta del caballero, là. No, è old. Vabbè, vi saluto, dai, che do qualcosa. Dai, Fabri, passa quando vuoi. Io domani, se alle 10 sono in officina, se vuoi passare, faccio una chiacchierata, puta. Ho visto una cosa, andavo lì, mi sono andato in campagna, e mi sono fatto da 4 anni. E tanto c'è la Ma bisogna stare attenti anche con le altre pastiglie che stai prendendo, che non fai né gol. Sono andato il medico farmacista, sabato la sera in farmacia, non voglio manco camminare, il respiro mi mancava. E' pronto così così, allora se ne voglio. Come le vuole, in pastiglie oppure in polvere? Mi sento un po' strano, ma anche la faccia non male. Si che prenda questo partito e mi fatto che resta di medico. Quanto è la cosa che non vuoi fare? No, niente, ogni cosa per fare soccorso, ciao Bacchisio, carissimo, ciao Dani Marino, Ettore, non so chi ci sia altro, vai Bacchì. Ciao Claudio, buonasera, viene ascoltato. E le pastiglie ci vogliono, Claudio, quando si deve prendere. Le pastiglie usa quella giusta, vabbè, le sopporte bisogna usare, quelle fanno molto bene ragazzi, quelle fanno benissimo, chiudere le punture. Perché ti hanno dato queste pastiglie, ma chi? Cosa servivano praticamente? Adesso sto prendendo pastiglie, per le malattie che ho. Non mi vergogno di dirlo, c'è un po' il morbo del palito, sto prendendo un sacco di pastiglie. Poi questi giorni, diciamo già un mese, dopo la schiena, con le gambe, non riesco a trainare, ma oggi non funziona la gamba, bloccata al 100%. E allora oggi vado a Cerutini, vediamo un po', le punture non hanno fatto niente, le pastiglie non hanno fatto niente. Ecco, vediamo se c'è Cerutini. Una brutta retta da pelare quella, una brutta retta da pelare. Speriamo piano piano, Bacchia, ne esci fuori. Io in Piazza d'Italia poco fa sono andato, e mia figlia ha chiuso il bar alle 6, quindi passo a prendere, vengo a prenderti. Allora, ma capi siamo buoni, siamo tutti canti, e vabbè, piano piano già riusciamo a mandare davanti. Non ti bocio di altro. Ci sentiamo, alle prossime, ok, riprenda il signor Bacchi. E meglio vedere, buona scoppata per domani. Grazie, allora buona scoppata per domani, Mari, ci aggiorniamo, avanti top. Ma io non rivolgo di nulla, gatta chi, se no da voi si ravvegliava in allegria, invece, vai Gusciava. No, oggi non è, ma non andiamo mai, ma sempre mi senti a scoppare lui. Domani mattina alle 5 ti fai la prima scoppata, Mari. Piano piano, spazza bene, mi raccomando, Avanti Bacchi. Senza lasciare questi carta in giro, come fa questo che passa qua di fronte a casa. Deve accogliere solo quelli grandi che lo fanno cadere, gli altri alla prossima volta. Allora, se fate un mattino che passa ai nonchi, che si rabbaida. accelerare già a fare un giro. Aspetta. Senti, ci sono le persone di quelli verdi, quelli gialli, quello della plastica, che a volte ne cade qualche bottiglia, qualche pezzo di coso per terra, eccetera. Passa dritto, noi che li raccogliono, passa di roba, vi dà il gassonetto, vuoi uscire un ragazzo? Già ciamba che cosa? Tra poco già ciamba. Voglio vedere a chi sempre ha iniziato a fare un giamba nei sempri e tengono sotto osservazione. Io lo so, facciamo una, non ne vado più nulla. Le strade fanno schifo, sia come nel tempo romano e sia come strade in generale, quindi lasciamo perdere. È tutto magna magna al momento in cui decidevano candidare e dopo ti dicono di andare a cagare, proprio in rima. Avanti, Battista. È proprio così. Al momento tutti promettono, fanno, rifanno, facciamo questo, facciamo quell'altro, aggiustiamo la strada, facciamo i marciapiedi, facciamo le luci, facciamo la vendetta urbana, lo scorrevole, però nulla, passano, ciao. Ah, la circoscrizione. Piani. Ma infatti è proprio così. Ma infatti prima c'era un sacco di controllori, sorveglianti, adesso non la vedo più girare la mattina, io uscivo presto. Incrociamo le bambine con i sorveglianti che giravano, capite? Allora non ve ne manco uno, forse per quello che sono tutti a Pasquale Baro, gli operatori ecologici, perché così si chiamano, la vera parola è quella. Però ti ripeto, qua nella mia zona adesso c'è questo qui che già da un bel po', infatti gli lasciamo che avevo il bisogno di moto, ha il telefonino in mano, faccio un filmattino e lo porto a un amico lì all'assessorato. Non devi essere in bacio alla macchina perché cazzo sei pagato per lavorare, non per stare seduto nella moto. Ehi, già siamo qua. No, da Vita Bassi, il latte dolce, e mi pare che sia abbandonato da tutti. Ehi, Marchi, dai, siamo qua. Se si trattiene ancora a parlare un attimino, se no chiudo anch'io e vado a fare il mio politico e poi ce l'hai. Le 8 meno 5 e poi chiudo. E così è proprio da manifredismo, da un vedo poco però. Tornando. Sì, ma guarda che adesso non c'è Marino che è andato via, ma lui stesso ti può confermare che in tutta la città così è. Sono operatori ecologici che se ne sbattono veramente le scatole, perché a un certo punto se tu c'hai una zona e la devi pulire, non è che te la puoi guardare. Ognuno tra te sua dice quello, e tu, allora, preparato, dici, ma non dai esami. Ma che so, Bruno, ho telefonato giù a Cagliari e mi ha detto che quest'anno non c'è un biglia, rubo. Dopo che faccio colazione, me ne ubbiglio mezz'oretta, un'oretta, e me lo voto. Ai, mamma, fai bene, tieniti in allenamento. Perché con questo virus è un casino. Quindi sicuramente hanno fatto slittare un po' tutto, capito? Però so che poi fanno i online, non so. Hai già fatto tutto, no? Hanno cambiato tutto, ma comunque ogni caso già va bene. Se uno è preparato, che sia davanti al computer o che sia davanti alla scrivania, chiamo una prima. Tutto qua. Beh, non ho più sentito la Gio Maria, neanche in PMR, come mai? Deve essere che anche lui deve essere o è fuori o... è uscito o ha anche messa e non è ancora rientrato. No, ma a prescindere da oggi, è già un po' di giorni che non lo sento, neanche più a me a volte entrava a fare due chiacchiere. Ma perché c'è sempre quel problema, mi sembra dell'antenna, cos'è che abbia, non ho capito. Non lo sento più. Il problema dell'antenna che disturba. Quindi entra 10 minuti e poi se ne va. Però sono anch'io che non lo sento. Ma con Marco Emanuele a gente giù. E da rimane che non rintendo. Io non so che va a entrare. Buonasera a todos. Hai finito alle 10? Io ho finito. Fabrizio sta facendo roba, quindi adesso ho passato dove ho sentito gente. Hai fatto non sono entrato perché l'argomento non mi interessava, non sapevo cosa dire e quindi sono passato qua a farmi due chiacchiere con Tore. Va bene, e poi Vittore per Gianni. Ok, ciao Gianni, ben entrato con la voce squillante. Ciao Tore, ben sentito anche a te, dai. Bisogna farci sentire ogni tanto. Infatti. Ma a Picano vince Biandini, no? Oh, mi sono facilmente di andare a settembre, poi rimanda, rimanda, fai questo, fai l'altro, non bisogna più andare. C'ho le canne ferro, me le avevo tutte quattro ingrassate, fatte, pulite, smontate i mulinelli, ingrassati, passate il CRC, e erano tutte pronte. Però poi la buglia manca, non lo so, non c'è più... la spinta che ci avevo prima che ero solo, che ero in compagnia, dovevo andare e basta. Vedi, dai, era giudito io. Bisogna avere la spinta, ma da voi sei in pinta, se caggi è brutto. Vabbè, dai, riprendi Claudio. Va bene. Non mi guarda, sinceramente parlando Gianni, anche io l'avevo già preparato la canna a pesca, e Franco mi aveva promesso che appunto andavamo qualche giorno a pescare, porta pulita, mulinello, tutto, me l'ho già armata, pronta, come quel giorno appesa. E invece niente, è sempre incasinato, e allora rimane lì. Ma qualche sera mi prendo tutta l'attrezzatura e me ne scendo a calamari, buono, non lo so, a fare così, a passare un periodo. Tanto prima dell'una, alle due di notte non sto prendendo sonno e quindi magari dopo cena armiamoci le partite. No, a me lo sai cosa mi succede, mi guardo il televisore, mi dromo, dopo mi sveglio alle due, sto sino alle quattro di mattina sempre sveglio. Allora comincio, accendo il televisore, poi mi stanco, una volta che mi stanco me ne vado a letto, perché mi piglia così, non magari sto guardando un programma mi viene la sonnolenza, che mi sta facendo così adesso? Certo, c'è cosa ti dico, saranno 60 anni che le prendi sul virus, se ti dico, io mai mi addormentavo guardando la televisione, se cazzo c'è la partita, non sono riuscito a guardarla, canale 5 lì, sono messo lì, ho messo due nocciolinette così, niente di che, magari avevo le nocciolini, mi è venuto questo abbacchio, come dice qualcuno, no. Mi sono dormito lui, ma e lui mi ha detto, la partita, guardate a te, sì, domani è già bello, poi mi sveglio dopo magari un paio d'ore, e sto fino all'una, alle due che non prendo sonno, una rottura di balle allucinante, io ero un ghiro, quando lavoravo ero un ghiro, arrivederci, ero già dormito, mi svegliavo, aprivo gli occhi alle 5 del mattino, pronto a farmi andare a lavorare, adesso non c'è Cristo di dormire, cazzo, vai to. A me già non mi butti. Pure se mi trovo da sala televisore e poi Emilio mi ripreso e mi andate a cuccarmi direttamente. Ah, vedete se trovo tutta... Ma non so che bisogna... Penso che ci tenga risi. Io anche prima mi sveglio, ma sto dormendo 3 ore, perché dormendo 3 ore. 3 ore, perché infatti la mattina sono un rincoglionito. Se esco... Mi alzo anch'io, io mi sveglio alle 5. Così mi ripreso. Capito, con la scusa mia figlia la mattina al bar, quindi anche alle 7, starò un pochettino con lei, poi ci papà io accompagnavo tutti quelli di fare colazione, quindi vado con lei, faccio colazione al bar, poi me ne rientro a casa, non piano ancora dormito, quindi devo aspettare che si svegli, e torno a uscire, vado via Napoli da San Dino, mi prendo un altro caffè, mi leggo il giornale, mi prendo le sigarette, poi torno a portare Ugani. Capito? Un ricoglionito, cioè, una cosa allucinante, cazzo, mai vista, boh, non so più cosa fare. Niente, questa cosa, ero impegnato, mi ha impegnato il lavoro, ma siamo fermi per questa pandemia, e quindi sono disperato, non so cosa fare mangiando. Vai Gianni. Idem come sopra. No, io ho qualcosa da fare, già ce l'avrei, devo mettermi un po' in carreggiata e trovare la voglia di farla. A chi su di sopra c'è la gatta da casa, mi sta sfogliando tutta la cucina. E adesso devo le bottiglie, tutte quante, tutto il calcinaccio che sta scendendo, e stuccarle e pitturare. Tanto glielo ho detto, l'ha fatto tutta di nuda, e via, è gentile, per carità. Fatto bene già, perché quando l'ho fatto in bagno l'ho fatto asciugare bene bene, appunto quando inizia a sfogliare, allora lo raschi bene, lo dai una carteggiata con la polacchia fine e poi lo pitturi. Senza stuccare? No, c'è bisogno di stuccare. Se ne passi la tela leggera leggera per togliere la cosa, quella, come si dice, te lo dico impressa, quella sfogliata, no? Dopo pure devi carteggiare già, se no si vede quando vernice. Non sei un tonacchino, mi auguro che la fai liscia liscia liscia, se no c'è vero, allora per non vedersi lo stucco, capito? Vedrai appena appena una passata di tela e poi vernici sopra magliera un pochino più grassa, in modo che attacchi bene, non si vede niente. Io l'ho fatto in bagno, è uscito uno spettacco, anche io avevo lo stesso problema, si è allagato il bagno di quello di sopra, però siamo molto amici, mi ha detto ti mando, ah se avessi di mandare. Questo mi ha fatto la casa, non è che mai niente gioco, mi ha comprato la tinta, il pennello, tutto mi ha comprato lui, non l'ho fatto io. Io c'ho una spugnetta apposita, che da una parte è tipo una spugnetta abrasiva, però per fare questi lavori, capito? Per carteggiare quando c'è l'intonaco da carteggiare, eccetera. E te lo fa liscio, liscio, liscio, è tipo una spugnetta, però rimane un po' più dura della spugna. Esatto, quella da muro, esatto, sì, quella da muro, quella te la devi usare. È la spugna, quella che è praticamente morbida, dall'altra parte ruvida, capito? Senza bagnarla, senza niente, tu hai una passata di quello prima, ti pulisci bene, ne verrà tutta la polverina, no? Che quella lì è la vernice praticamente che è bagnata e poi si sfoglia. Pulisci bene, non stuccare niente, già, viene un capolavoro, viene molto molto meglio. Perché se no ti tocca incamiciarlo tutto il solaio, perché si vede lo stucco. Così è che ho. Infatti, deve guardare se ci sono buchi, li copri e poi carteggi, piano piano. Se no, gli faccio solo la spugna e boh. No, buchi, no, l'ho pitturata due volte, c'è anche poca pittura, quindi dovrebbe tenere bene, dai. Perché proprio il soffitto, i lati l'ho pitturata più volte, ma nel soffitto proprio che mi veniva male a me perché c'è un problema al braccio, quindi la facevo, l'ho fatta due volte col rullo e via. Arrivato. Vai, Bacchi, è entrato Gianni, vai. Ok, buonasera Gianni, appena ascoltato. Bene, giusto, avanti già. Carteggia. E beh, ma sì, la voglia mi manca, già c'ho tutto qui, c'ho il lenzuolo da mettere per non sporcare, c'è tutto quanto, c'ho il camice di quando lavoravo da mettere, il cappellino, tutto gatto all'attrezzatura, me ne viene solo la voglia di farlo. E ne devo comprare anche la penna di pittura bianca perché non ne ho, c'ho solo quella con lo salmone che ho fatto la sala e quella bianca mi manca. La bianca le copri un chilo? E fatto tutto, oppure se c'è qualcuno che ce l'ha, non ti ho venuto a darla, lo comprendo. Io non ne ho solo in tese, aveva un chilo che fai a chilometri. No, ma figurati, non so perché poi la usi poco, mi si guasta, se ne prenderne tanta non fa. Bisogna prendere un barattolo piccolo e via. Pennelli ne ho, pennellesi, c'è tutto qua. C'ho il rullo, la sala l'ho fatta tutta a rullo, è riuscita un bel bene. E ho fatto anche il distacco tra la parete e il coso, la zona superiore, e ho messo il nastro e ne ho fatto la strisciata bianca e poi il resto l'ho fatto tutto con lo salmone. Poi come sta facendo Flavio, carteggia, non struccare, carteggia solo e basta, solo lo fa sapere, cartavento e sei un signore, non si vede nulla. Tanto se ne fregano quelli di suo già. Che pittura uso per la cucina? Io non ne ho mai fatto, che pittura usare? Se mi lavo? Se mi lavo è tempera di usare. Ma la tempera non è quella che quando ti appoggi ti sporca tutto? No, la tempera è quella che si usa nei bagni delle cucine. Già la tempera devi usare per il solaio, anche per il solaggio non tiene di più la tempera, io ce l'ho con ricette in legno come finitura tra la parete e il solaio, non ce ne ho stacchi di tinta, non già, fatta io, esce un capolavoro, una bella passata, con quella terra lì, allisci bene, rubi tutta l'impurità, tutta la vernice secca e poi vernici, tranquillo che esce un capolavoro, fatto io. Un capolavoro, l'ho fatto con la tempera, capito? Va benissimo, vai. Infatti, devi usare sia per cucina che bagni, devi usare solo la tempera, perché sennò non fa, con la lavabile non respira il muro, capito? Devi usare quella lì, deve respirare il muro. Ma con coronavirus magari. Claudio!